fanno insieme Giuseppe Cruciani e David Parenzo? Un programma radiofonico canottaggio. Programma telefonico. Programma telefonico. Radiofonico. Cosa ha detto radiofonico? Radiofonico, io ho detto. Lei cosa ha detto? Ah sì, programma radiofonico. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Sì, questa sera Parenzo ancora non sa nulla di quello che è accaduto. Questa sera dovevamo mandare in onda, avevamo in mente di mandare in onda uno scherzo radiofonico realizzato da questa redazione, da questi matti che sono qui oltre che al microfono dietro le quinte. Lo scherzo radiofonico era quello con un finto Zoff che è riuscito a sentire, è riuscito a chiamare Silvio Berlusconi su una storia antica che riguarda il 2000, quando Berlusconi provocò la dimissione di Zoff con alcune frasi dette dopo la finale europea, e poi gli ha chiesto anche di Inzaghi, eccetera eccetera. Uno scherzo radiofonico che peraltro è già stato inviato all'agenzia di stampa di cui si parla, eccetera. Cioè Berlusconi cade nella trappola del finto Zoff, solo che per quei strani casi della vita, in contemporanea a questo scherzo è arrivata anche una decisione dell'autorità per la privacy, caro Parenzo, l'autorità per la privacy, perché sì, l'Italia è un paese assurdo, garante. L'Italia è un paese assurdo nonché ridicolo. Dopo anni e anni di scherzi, chissà perché l'autority per la privacy, come diavolo si chiama, insomma il garante per la privacy, si sveglia sulla vicenda di Barca, ricordate lo scherzo col finto Vendola, insomma ha richiamato questa trasmissione. Garante richiama la zanzara sul caso di Fabrizio Barca, pratiche ingannevoli, il mascheramento dell'identità dell'interlocutore, insomma sostiene, poi noi faremo tutti i ricorsi possibili e immaginabili. Sostiene il garante per la privacy che non si possono più effettuare da parte di giornalisti degli scherzi radiofonici, perché altrimenti si tratta di pratiche ingannevoli, eccetera eccetera. Dunque questo editore decide di non mandare in onda, per rispetto di questa decisione del garante, sì, lo scherzo realizzato pur essendo uscito ormai sulle agenzie di stampa. Perché ripeto, la diffusione sulle agenzie di stampa è avvenuta prima della decisione del garante. Decide di non mandare in onda l'audio, purtroppo vi dico, dunque ribellatevi pure a questa follia, questa totale follia. Io dovrei usare parole molto più dure e non è escluso che le userò nel corso Sento della trasmissione. Un po' di freno a mano. Sì, freno a mano, perché giusto, dovrei definire. Bravo, stavolta hai ragione. Sì, bravo, ma la prudenza, fosse per te, te la faresti sotto ogni volta, perché no, non è questo il punto. Tutt'altro, anzi, tutt'altro. Io andrei all'assalto, perché abbiamo però fatto. Però rispetto le decisioni. Io non rispetto, lasciamo perdere. Allora dovresti. Io non rispetto nessuna decisione, infatti dovrei disubbidire. Infatti vorrei disubbidire, e non è escluso che lo faccia anche con gesti più eclatanti, solo per il fatto che vogliono bloccare la storia. Da che mondo è mondo, alla radio sono stati fatti scherzi radiofonici, eppure la privacy, il garante della privacy, prova a bloccare quello che è scritto nella storia, cioè la realizzazione di scherzi radiofonici, chiaro? Questo è il punto, al di là della burocrazia. Noi per rispetto non mandiamo in onda questo scherzo, per grande rispetto non mandiamo in onda questo perché scherzo, perché l'ha chiesto l'azienda. Attenzione c'è una però piccola... scusa, non ho capito una cosa, perché l'hai detta en passant. Dimmi. No, interessante, però dice giornalisti o non si possono fare scherzi telefonici? No, giornalisti, sì, ma quindi... lasciamo perdere adesso le scartoffie e la burocrazia. Beh, no, è di sì, sostanza. Sì, va bene, oddio mio, perché stai se lo fa fermo, un altro... non farmi perdere il filo ogni volta con le tue cose da burocrate. Allora, la cosa fondamentale è questa, che ci vuole, se il signor Silvio Berlusconi, se il signor Silvio Berlusconi, cosa che verrà, come dire, provata nelle prossime ore, dà il suo consenso per mandare in onda questo scherzo può essere mandato in onda. Dunque noi aspettiamo, faremo una risposta a una domanda scritta, la autorizzazione da parte di Silvio Berlusconi, che è uomo di mondo, uomo di spirito, e spesso ha utilizzato anche lo scherzo di barca per le sue, come dire, per le sue, per alcuni discorsi politici, dicendo volevano la patrimoniale, ricordate, no, eccetera eccetera, ha utilizzato queste cose, ci dia l'autorizzazione a mandare in onda questo scherzo, noi glielo mandiamo integrale, glielo manderemo integrale, e mi aspetto, conoscendo Berlusconi, il suo spirito, la sua ironia, eccetera eccetera, che domani dia l'autorizzazione a mandare in onda questo scherzo. Intanto mandate le lettere a questi burocrati della privacy, ma cominciate a mandare mail e lettere a questi burocrati della privacy che vogliono bloccare la storia. Ora si può accettare tutto, tutto, dire che Renzi sta sbagliando eccetera, ma non che c'è autoritarismo, autoritarismo, stiamo passando ad altri argomenti, eh. Poi torneremo su questo, poi torneremo. Rodotà, sentite Rodotà, Rodotà, ti ricordi quando lo invocavano? Rodotà, Rodotà. Abbiamo usato la parola autoritarismo, mi pare che ci siano molti tratti quando un potere è concentrato, quando un potere è insofferente dei controlli, quando un potere tutto sommato dice non ho bisogno di dialogo. Il dialogo, in Italia si dialoga da 50 anni, si parla da 50 anni, ci vuole qualcuno che prenda le decisioni, poi si possono criticare le decisioni, ma non il fatto che si prendono le decisioni, per di più a maggioranza, questa è la follia, si parla di autoritarismo, ma quale autoritarismo? A proposito di Renzi, sentiamo un po' l'inglese, a un certo punto invece di dire soccer, io pure non è che sia un campione, anzi tutt'altro, però quello ci provo, io non ci provo nemmeno a parlare. Renzi, l'inglese di Renzi negli Stati Uniti. After this world champion, we don't discuss about soccer. We love very much the baseball, the cricket and not. So sentiamo anche change labor market, soccer in realtà significa un'altra cosa, quello è non soccer, vabbè, comunque. What is the core of our government? I think the first thing is change labor market in Italy. Because labor market in Italy. Avete sentito, dice because, ci prova, cioè ci prova drammaticamente. Com'era la storia? Com'era? Because. What is the core of our government? I think the first thing is change labor market in Italy. Because labor market in Italy is focused on the past. Altra follia italiana. Cosa ha detto? Fax? No. Non ho capito. Cosa? No, davvero. Altra follia italiana. Senti, altra follia italiana. Sì. Altra follia italiana è questa cosa, che è una notizia di qualche giorno fa, che voglio riprendere. Il saluto fascista ancora reato. C'è bene. La Cassazione. Ma come bene? Bene, io c'è la Cassazione. La Cassazione conferma la condanna per due militanti di Casa Paolo. Potrebbero essere anche due stronzi qualunque. Il punto non è questo. È ancora reato fare il saluto fascista? Cioè, sì, se tu fai sì. Il saluto fascista è reato, ma di che certo, stiamo parlando? Nel 2014, certo sì. Nel 2014. Purtroppo non va in galera, da. Purtroppo, credo. Cioè, dovrebbero perché andare in galera. Danno, perché viene commutata. Attenzione, spesso secondo in multa. Parenzo, secondo Parenzo, chi fa il saluto fascista deve andare in galera. Beh, una settimana almeno, almeno una settimana. Che vergogna. Almeno. Signori all'ascolto. Signori di Casa Paolo. Signori di Casa Paolo, signori fascisti, eccetera, eccetera. Ma assolutamente sì. Senti la Mussolini che dice. Assolutamente. Senti la Mussolini sì. Che dice, giustamente la Mussolini, viva la Mussolini, no Mussolini, viva la Mussolini. Onorevole Mussolini, ha saputo che il saluto romano è reato? Oddio, non me lo dite, mi toccherà farlo allora. Ecco, lei cosa ne pensa di questa sentenza? Io non lo facevo da un po', mi toccherà farlo, ma che ci sono cose più gravi, stanno ancora a pensare a questo fatto. Quando mi vogliono provocare fanno il pugno, io faccio così, è una questione di cuore. Vuole dire di non farlo più a chi lo fa? Ma perché? Ci mancherebbe altro, fate quello che si può pensa. Fare, ma lei non lo fa. No, si può fare, se è reato lo faccio. E lo faccio. Allora io vorrei invitare tutti i liberali di questo paese, non Parenzo, che evidentemente quando si parla di cose che riguardano il fascismo gli viene un attacco di bile. Ma non io, tutti ma i liberali, è la storia di questo paese, anche quelli non fascisti, ma è la storia di questo paese, ma con tutt'altro, e fare il saluto fascista, bravo. Capito? E li arrestiamo tutti, ma così meraviglio, in un colpo solo. Buffone sei tu, un corno, perché ci sono delle regole che vanno rispettate. Oliviero Toscani, ragazzi, ma ti rendi conto, Oliviero? Sì, tu come stai tu? No, fra poco ci chiudono perché questi qua del garante della privacy si svegliano all'improvviso dopo anni in cui abbiamo fregato politici della destra. Chissà perché, quando iniziamo a toccare politici di sinistra con gli scherzi, tra l'altro oggi abbiamo fatto uno scherzo a Berlusconi, abbiamo fatto uno scherzo a Berlusconi, sì, così si svegliano e dicono che non si possono fare, capito? All'improvviso si svegliano perché si tratta di Barca e della sinistra, capito? E di un certo gruppo editoriale. Vergogna! Vabbè, Oliviero, se no mi incazzo troppo, dai. Dimmi se questa cosa del saluto fascista, secondo te, se è una cosa normale in Italia. Beh, il saluto fascista, secondo me, non è che vada condannato, come quando è ridicolo. Quindi, cioè, da imbecilli farlo, è da imbecilli. È come scorreggiare in pubblico, insomma, non si fa. Insomma, non è che. No, ma io sono anche d'accordo con te, assolutamente. Cioè, ma è reato, può essere reato ancora? Cioè, si può ancora perdere tempo con queste puttanate? È reato, non può essere. Ma è reato. Io trovo che è ridicolo. Uno che parla una poco di ma è un imbecille. Insomma, fa un saluto fascista adesso, sei un imbecille. È reato essere un imbecille? Forse sì. Cioè, allora mettiamo in galera tutti gli imbecilli. No, però ho capito, Parenzo li vorrebbe in galera. Ma non li vorrebbe, è la legge che li vuole, per fortuna. In galera bisogna curarli, bisogna mantenerli, in galera. Non sì, vanno una settimana lì, puliscono le celle, ma aiutano dai, un po'. Smettila, sì, sì. Ma dai. Buffone un corno, la penso così, poi voi pensatela diversamente, che me ne frega a me. Fanno il pugno chiuso, saluto comunista, insomma, no? Perché il saluto comunista? Perché il pugno chiuso no? Dittatura pure quella, perché no? Spiegami. Ah, perché no? Perché ma che no? Superficialità inaudita. Ah, superficialità ma inaudita. No, ma dai, ma è banale. E il pugno chiuso no, milioni ma la ragione di morti è talmente, parte, ma è talmente banale, ma la ragione è talmente cosa, banale che italiana, te lo spiega un salame qualunque fuori italiana, quando esce dalla che radio. Che cos'è la storia italiana? È talmente banale il pugno che cos'è la storia italiana? Che cos'è la differenza? Sai la risposta che tu qual è la differenza? Che c'è stato il fascismo in Italia? Che c'è stato il fascismo in Italia? Ci sono state leggi razziali, il fascismo. Sei vergognoso, sei, dai. Viole. Ma è la storia. Ma poi puoi dire quello che ti pare. Perché noi ci fermiamo alla storia italiana, invece il comunismo non ha fatto morti. Scusami. Toscani, mi sembra più intelligente il comunista su questo. Italiano. Oliviero, che dici? È una discussione ridicola. Appunto, certo. Ma sì, è abbastanza ridicolo. Certo, uno che in pubblico saluta ancora col saluto fascista è un testa di cazzo. Esatto. Scusa, tutto lì. Ma quello è un altro discorso. Ma non si può punire uno perché è un testa di cazzo. Esatto, non si può mettere in galera tutti i testi di cazzo. Sarebbe. Bravo, dillo a Parenzo chiaramente. Tutti, non traffico, è così. traffico. Saluti da Roma e quindi saluti romani. La cosa più incredibile del mondo è che c'è gente, ovviamente a Repubblica non la pensano tutti allo stesso modo. Giovanni Valentini, che scrive il garante della privacy, richiama la zanzara sul caso Barca. No a raggiri artifici, ben detto e ben fatto. Io mi ricordo che qualche settimana fa, al di là delle intercettazioni pubblicate negli anni, ma lasciamo perdere questo argomento perché intercettazioni sono fatte dai magistrati, la Repubblica fece andare uno che si era finto infermiere, l'amico tuo Apuzzo qui. Si chiama Stefano Apuzzo, però non è commette un errore, non fece andare, stai commettendo uguale, un piccolo errore. No. L'ha pubblicato, sì, uguale. Certo, però non è un collaboratore di Repubblica. Oddio, ma sei veramente peggio dei burocrati nazisti. Tu sei peggio dei burocrati. Manderesti uno a rogo? Manderesti. Allora, hai detto semplicemente, stai dicendo una cosa giusta. Ma mi lasci parlare o no? Oppure devi fare il burocrate? Io capisco, hanno pubblicato, non ho detto nessuna cazzata. Hanno pubblicato, sì. hanno mandato in onda una roba sul loro sito, sì. In cui c'era uno che si era travestito, sì, da infermiere, e per riprendere Berlusconi all'interno, sì. di Villa Arzilla, sì. Là dove diavolo è a Cesano Boscone, capito? Chiaro? Una cosa di ultra privacy, non privacy, di più della privacy, solo perché c'era Berlusconi, e l'hanno messa sul loro sito. Perché non interviene il garante della privacy su questo? Perché non interviene? Non fare il burocrate! Dimmi, di te se devo essere attaccato su queste cose dalla persona che fa la trasmissione con me. Ma no, ma io vai, non ho detto questo. Vai, io su, non vai, ho detto assolutamente vai. Questo. Oliviero, loro senti, che ne pensi hanno della un'altra contraddizione. Sì, vabbè. Oliviero, sembrate, che ne pensi? Non sembrate una vecchia coppia di ex innamorati. Cioè, ma è completamente pazzo. Cioè, invece di difendere questa, invece di difendere quello che ma abbiamo fatto. Ma non mi hai fatto dire nulla ma su dai, questa. Dai, su. Dovete sposarvi in un altro posto. Ma è una cosa pazzesca. Parlate sempre di questi matrimoni gay voi due. Ma siete una vecchia coppia, due gay che si continuano sì, sì, ma questo, a insultare uno con l'altro. Questo è sicuro, guarda, questo ma è sicuro. No, io, però. Hai detto una stronzata. Spiegami. Così. Quando uso con tuo marito, che quando uso il tuo linguaggio, no, vedi che mi capisci. Ma te la spiego meglio. Con queste cose del linguaggio. Hai detto una stronzata. Sì, vabbè, fai questa così vedi che lo capisci. Fai ti piace perché è il linguaggio che capisci fai meglio. Fai sta sceneggiata, io, sì, se, sì. Se te lo dico così lo capisci. Ti dico no, guarda che secondo me sai, se te la perché, dico sai, cruda. Sai Oliviero perché fa così? Sì. Perché lui adesso vuole non fare non è sai zitto un attimo, vuole fare finché comando io. Vuole fare quello fine, capito? Vuole fare quello fine, quello che è distante dalle parole grevi, si vuole distanziare da questa roba. Queste tu parli così, io parlo in un altro modo. Hai detto una stronzata. Vabbè, lasciamo perdere, dai. Così lo capisci meglio. Lasciamo perdere, dai. Non ho detto nessuna stronzata. Hanno fatto una scorrettezza enorme secondo i canoni della privacy e secondo i loro canoni. Ma capito? Non loro, l'hanno pubblicata, ma non l'hanno realizzata loro. Ti sto dicendo un'altra roba. No, loro. Ma è vero, ma la realizzatore della privacy è comunque alla fine una censura. Le censure col tempo si dimostrano sempre delle gran cazzate. Vabbè, ecco, bravo. Si rende conto. Senti, tutto qua. No, ma l'ipocrisia è un'altra. Quando che feci privacy. Bossi, non è solo questa. L'ipocrisia è ma che dico, anni fa feci Bossi che beffava Cosentino e fu osannato, questo è una cosa, fu osannato anche dai giornali di sinistra. Vabbè, ma lui, capito, si deve tenere buono, si deve tenere buono, si deve tenere buono un certo mondo, dai. Ma tu però oggi purtroppo hai mangiato qualcosa di grande. Si deve tenere buono un certo mondo. Io devo tenere buono un certo mondo, ma sei veramente una testa di cazzo, perché non devo vedi che capisci? Ti faccio scaldare un po'. Vedi che solo con questo linguaggio capisci? Ti faccio scaldare un po'. Capisci con questo linguaggio? Capisci solo questo linguaggio ormai, poverino. Ti faccio scaldare un po', ti faccio scaldare. Io capisco se ci fosse stato una discussione, mi sentite? Sì, ti sentiamo. Io capisco se ci fosse stato delle cose, discussioni importantissime, ma Zoff che telefona a Berlusconi è divertente, ma che privacy, io trovo che ci sono delle cose che sono proprio non so, è ridicolo che perdano che la privacy che chi sono sti giudici perdano tempo ma sono semplicemente perché sono amici di Barca così. Questo è il punto, sono amici ma di chi è stato colpito dallo scherzo, capito? So, amico non amico dai sui scherzi telefonici si fanno da una vita si fanno non ci rompete i coglioni hanno poco da fare sono quelle dello IAP dell'istituto di autodisciplina. Senti, ma il prete pedofilo che è stato fatto arrestare da Bergoglio ti ha stupito? Alla fine hai ragione tu. Vi ricordate cosa vi ho raccontato? Come no? Mi hanno insultato tutto. È la pedofilia. No, io ho paura. Non so adesso dove lo mettono. Lo metteranno in un'altra diocesi. Perché questi qua li spostano da un posto all'altro per fare questa educazione. Beh, no, pare che questo qua innanzitutto Bergoglio l'ha fatto arrestare. Ma fanno educazione sessuale questi qua, capisci? Cioè, che dici? Insegnano così, non so io. Ma tu dici che non sarà l'unico, dici te, là dentro il Vaticano? L'unico? Mamma mia. Ma ragazzi, andate in un collegio di preti. E che succede? Ma provate. Io ci sono stato. Alle terga. Devi stare attento alla tua integrità fisica, perché è pericolosissimo. Ma anche nel tuo collegio dove sei stato tu? Ma dove è logico? Ma qualsiasi collegio. Cioè, se per dirla in modo così che Parenzo così si allarma. Se ti pieghi, hai qualche. Cioè, no, dirla meglio. Esiste sempre questo stato di rapporti, strani rapporti, sguardi, cose. Comunque, alla fine, ragazzi, con l'arresto di questo qua. Aspetta, che ti richiamo dopo, Toscani, perché adesso c'è il giornale radio. Però, alla luce di quello che è successo negli ultimi giorni, anche con la sospensione di un altro arcivescovo in Paraguay, alla fine aveva ragione Toscani quando disse da noi quelle cose per cui è stato criticato e anche denunciato sulla pedofilia e la Chiesa. Torniamo tra un attimo. Ragazzi, sembrate una vecchia coppia di ex innamorati che litiga tutto il tempo. ragazzi, a proposito di censura, a proposito di censura, succede anche una cosa incredibile in un'altra trasmissione che si chiama Le Iene, caro Parenzo, che ha mandato in onda, credo ieri, no? Oggi è giovedì, no? Oggi è giovedì, sì, Le Iene ieri, sì, un bellissimo servizio di Dino Gerusso, Neo Iena, sul saluto fascista. Ha intervistato sostanzialmente tutti gli ex missini, ex fascisti, eccetera, eccetera, sulla decisione della Cassazione, ricordando a questi signori quando facevano il saluto fascista, se ancora lo fanno, se lo fareva. Cioè. C'era anche la Mussolini che abbiamo mandato in onda prima, no? Che dice: adesso che è reato, mi viene voglia di fare il saluto fascista. E altri ancora, chi c'era ancora? C'è qualcuno da mandare in onda? Storace che si è incazzato un po'? Chi c'è da mandare in onda? Storace, c'è? Andiamo, Storace, qualcuno. Da Storace, ho letto che lei pagherà la multa di questi, sì, ragazzi, perché? Perché credo, insomma, che i ragazzi fanno un saluto e vengono condannati. Poi tutta la casta che viene pizzicata strilla che non vuole essere presa. Mi dà fastidio. Mi dà fastidio la sentenza. Adesso grazie. Lei l'ha fatto il saluto romano in passato? Una marea di volte. Ce lo fa, per ce lo fa. Se io dico camerata Storace. Oh, senti, basta. Senti, basta, pure Di Canio c'era, pure Di Canio. Il saluto romano lo faccio alle persone degne, degne. Cioè, un po' dicendo al signor Gerusso delle Iene: lei non è una persona degna. Se ti chiamo camerata adesso, come reagisci? Come devo reagire? Ti dà fastidio, ti fa piacere? No, no, non ti dà fastidio. Ci puoi fare ancora il saluto romano, Paolo? Ce lo faresti ancora il saluto romano? Siamo persone degne. Perché prima ci hai detto che non siamo persone degne? No, no, non ho detto questo, non fare il fuoco. No, ho sentito. Ho detto che faccio il mio saluto solo ai degni, agli amici, quelli che conosco, persone... non vi conosco, a voi. Quindi i tuoi tifosi allo stadio erano degni? Lo stadio è passato, mo è una cosa che è successa. Cosa dici ai ragazzi che ancora oggi fanno il saluto romano? Ma se ritengono di farlo, le persone devono essere libere di esprimere il proprio amore. L'importante è che si comportino bene socialmente. Sono una persona libera che sempre avrà quel sentimento e quell'idea. Allora, però vi vogliamo raccontare un'altra storia su questa vicenda. La storia è questa. Questo servizio all'inizio era fatto in un altro modo, perché dentro questo servizio sul saluto romano c'era anche la signora Polverini, la signora Renata Polverini. Ci sono molte foto che ritraggono la Polverini che fa un saluto romano, lei nega, ma in realtà queste foto sono ovunque. Allora Gerusso è andato lì, ha chiesto l'opinione alla Polverini. Hanno montato una conversazione. Dopodiché, che cosa è successo, Parenzo? A proposito di censura, la signora Polverini ha mandato una diffida tramite i suoi avvocati a redazione Le Iene, Davide Parenti, Dino Gerusso, dottor Luca Tiraboschi, direttore di Italia 1, ce l'ho qua davanti, dottor Fedele Confalonieri, presidente Mediaset, dottor Giuliano Andreani, consigliere delegato di Mediaset. Cioè, si è rivolta perfino a Confalonieri e al consigliere delegato di Mediaset, forse avrà fatto pure qualche telefonata, dicendo: apprendo dalle agenzie di stampa che stasera manderete in onda un servizio sul saluto fascista e chi lo fa oggi, contenente un'intervista che mi avete fatto per strada alcuni giorni fa. Vi diffido dall'estrapolare fotogrammi da sequenze filmate disponibili e note al solo fine di diffamare la mia persona, attribuendomi gesti che non ho mai fatto, avvisandovi che in caso contrario tutelerò nelle sedi opportune la mia immagine. Ma queste foto sono presenti ovunque. Patetico. Le foto della Polverini, che si rivolge perfino a Confalonieri. Patetico. Perfino a Confalonieri, per impedire. Purtroppo, devo dire la verità, qualcuno ha tolto questo pezzo, perché quando uno chiama gli avvocati, poi questi avvocati sono più realisti del re, togliete, certo, la Polverini. E dunque la Polverini, certo, è stata sbagliato, tolta da questo servizio. Sbagliato. Tolta, capito? Chiamato Confalonieri per 4 secondi in un servizio delle Iene, ma vi rendete conto o no? TG3, poi Toscani ancora da Parigi. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Nuovi raid contro l'ISIS, allarme attentati nelle metropolitane in Francia e negli Stati Uniti, distrutta la chiesa cristiana a Tikrit, una delle più antiche del Medio Oriente. Intervento del Presidente del Consiglio italiano Matteo Renzi all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, guerra all'ISIS e crisi dell'economia tra i temi del suo discorso. Sulla riforma del lavoro la minoranza del PD cerca una mediazione col governo. L'intesa è possibile, dice Pierluigi Bersani, basta volerla, Poletti no ai tabù. Napolitano dovrà testimoniare al processo sulla trattativa Stato-mafia, lo ha deciso la Corte d'Appello di Palermo, il capo dello Stato, riformare la giustizia. Papa Francesco rimuove un vescovo del Paraguay che ha coperto abusi sessuali. Nuovi particolari nella vicenda: il nunzio arrestato filmava i minori col cellulare. La conferenza delle regioni stabilisce una tariffa unificata per la fecondazione eterologa. Il ticket sarà tra i 400 e i 600 euro, contraria solo la Lombardia. Dopo la denuncia presa diretta sugli sprechi e i servizi di una ditta appaltatrice dell'ATAC, due dipendenti sono stati sospesi. Oggi presidio in Campidoglio. Sapere da Oliviero Toscani, hai visto che in Scozia non ce l'hanno fatta, c'era anche Salvini lì in Scozia, Salvini ad agitare la bandiera dell'indipendentismo padano, Padano, sì, con le confini padani, con la regione padana. Ma che vuol dire? Ragazzi, siamo qui, stiamo cercando di parlare dell'Europa, resti qua a far perdere tempo. Ma nonostante la Scozia, la disfatta della Scozia, pare come che ci voglia... Come questi qua che vogliono fare il saluto fascista, dai, sono tutte cazzate. La Polverini che dice di no vuol dire che ammette di averlo fatto, insomma. Sono come i preti che non ammettono che esistono... Che esiste la pedofilia nella chiesa, ma è tutta ipocrisia. Comunque avevi ragione tu, avevi ragione tu sulla pedofilia. Alla fine non ho detto niente di strano, che il Vaticano, tu avevi detto che il Vaticano è pieno di pedofili, è pieno, non il Vaticano. E poi che cosa avevi definito il Vaticano? L'avevi definito in un modo, che cos'era? Sembrava una roba di stato masochismo, una lobby sadomaso, un club sadomaso. Beh, devo dire che ma secondo te non è l'unico quell'arcivescovo che era in Vaticano, no? Quello che hanno sospeso, quello... Ma secondo me no, insomma, lo sappiamo tutti, ma è inutile, lo sappiamo tutti, no? Che esiste questa... Ma secondo te Papa Bergoglio perché vuole... sono così contrari, no? Tutti quelli contrari a qualcosa vuol dire che hanno un problema. Sì. Ma tutti gli omofobi eccetera, sono tutti un po' così, lo pigliano, no? In quel posto, dici tu, comunque. Ma non so se lo pigliano o no, però insomma, lo danno, lo pigliano. Vi ricordate Hoover, capo della CIA americano, sì, famoso omosessuale, che faceva delle battaglie tremende, anche violente, contro gli omosessuali. Sono quelli che non accettano la loro condizione. Adesso ti faccio sentire una cosa che ha detto Matteo Salvini qualche giorno fa, il segretario della Lega, in un comizio, parlando del fatto che la coppia omosessuale non appartiene al mondo della natura, con questo paragone. In realtà si parlava anche dell'adozione. Senti. Il buon Dio e la natura hanno deciso che se non si incontrano almeno per un quarto d'ora un uomo e una donna, difficilmente succede qualcosa. E la natura è meglio non disturbarla, perché la tragedia del Vajont non è lontana da qua. E quindi quando l'uomo violenta la natura, giustamente la natura si incazza e si ribella. Quindi la Lega, movimento normale per persone normali. Allora, caro Oliviero, ha una strana visione del normale lui. La natura è meglio non disturbarla. Il Vajont paragonato a praticamente alla distruzione all'omosessualità. L'omosessualità. Hai capito il livello culturale di quelli della Lega? Che ne so, il Vajont, che c'entra? Ragazzi, questi qua via a ridere, tutti incazzi tutto il tempo. Devi ridere in faccia questi qua, e basta. Sì, ma ho capito, ma il Vajont, uno che paragona, diciamo, la natura... Ma è un pirla, scusa, è logico. Come si dice in Padania, quando uno è un pirla, c'è perché poco fa... Ma Buonanno che vuole schedare addirittura i gay del suo paese? L'altro, lo conosci Buonanno, te? Sì, ma che li schedi e poi cosa ne fa? Che ne so, dice, se si vogliono sposare vengono qui, li schediamo. Punto. Cioè, ma di fronte a queste cose, secondo te bisogna ridere? Come bisogna fare? Che Parenzo si incazza. Io alle volte rido, ma figurati, rido. No, ma scusate, cosa vuoi fare? Se uno dice una cosa di libertà d'espressione, e uno esprime anche delle cazzate, amen, cazzone, ma cosa vuoi fare? Amen. È così, non è che la deve pensare come me. No. No, però, ma per carità. Dico, tutta questa gente qua è fuori dal tempo, fuori dal mondo. Ma dove vivono? Ma non è possibile. Salvini, poveretto. Ma lo vedete come parla, no? Come parla? Parla, sì. Come parla? Che ne so? Come parla? Lo sai tu? Da persona non tanto acculturata, insomma, dai. Vabbè, adesso la cultura non è un politico. Il viaggio più lungo che ha fatto è in Corea del Nord. Ah, perché ha fatto delle cose molto decise. Ha fatto comunque una cosa che ho trovato geniale sono quelle bambole che hanno fatto con la Madonna. Ah, quello è fantastico, quello è fantastico. Queste io le voglio assolutamente, le voglio. Logico, finalmente. Ordiniamole insieme. La Barbie con la verginità della Barbie. La verginità della Barbie. Ti dispiace non averla pensata a te sta cosa, un po'. Ma è fantastico, guarda, è geniale. Ma anche Ken con Gesù Cristo in croce è fantastico, no? Sì, ma qualcuno potrebbe offendersi. Beh, però sì. Ma perché? Qualcuno si è offeso dicendo non si possono rappresentare. Ma qualcuno si è offeso. La Barbie, la Madonna sono tutte e due bellissime, no? Non perché dovrebbero offendere. No, ma infatti secondo me non c'è niente da offendersi, anzi è l'esaltazione massima dei simboli cattolici. È il massimo, la Barbie è il massimo per le bambine. E anche per i bambini, sono sicuro che Parenzo giocava con la Barbie di sua sorella. No, neanche con Ken. Giocavo con i Playmobil. No, Cruciani giocava con Ken. E tu con la Barbie, dai. Io con i Playmobil giocavo. Non nascondete. E purtroppo mi dispiace per te. Mi sembrate quella la Polverini che dice di no, che ha fatto comunque la cosa che mi fa pensare adesso, che sto pensando, è che con tutti i cazzi italiani sulla privacy che ci sono, tutte le violazioni enormi della privacy che ci sono state negli ultimi anni, questi qua sono andati a rompere i coglioni a noi che abbiamo fatto uno scherzo. Ma ti rendi conto o no? Ma poi uno scherzo divertente. No, ma lascia perdere quello di Zoff, anche l'altro, cioè, ma con tutte le cose sulla privacy che ci sono state in Italia, questi qua sono andati a rompere i coglioni a noi che faremo opposizione ovviamente e che intanto rispettiamo e non mandiamo in onda lo scherzo di Zoff e di Berlusconi se non vuole Berlusconi. Ciao Oliviero, a presto. Ciao ragazzi, continuate a litigare, ciao. E io sono fiero di te, perché tu non sei frocio. Get your motor running, head out on the highway, looking for adventure, and whatever comes our way. Il bello è che Parenzo vorrebbe mandare in galera gente come questa. Te lo ricordi quel tizio che quest'estate impazzava sul web? Uno che si chiama Mandarino di cognome? Sì, come signor no? Mandarino, un tizio enorme, grasso, molto simpatico. Sì, ma mezzo spostato però, no? Stai tranquillo che dopo viene da noi ai microfoni, per cui non far crollare tutto in due secondi. Ah, quindi non vuoi subito che dia giudizio. Aspetta, no, aspettiamo. Puoi anche dirlo, per carità, tanto dopo si combatte. Allora, quando diceva il Duce è l'unico che ci ha difeso, signor Mandarino, cioè per te dovrebbe andare in galera. No, adesso, ma devo dirlo adesso o dopo? No, dopo. Mandarino deve andare in una struttura sanitaria protetta. Allora cosa vuoi da me? Cosa penso o no? Mandarino, mi se ne frega. Mandarino, ma no, Mandarino. Il Duce è l'unico che ci ha difeso, Mandarino. Però agli altri che mi hanno ascoltato vi dico che l'unico che è stato che ci ha difeso del popolo italiano è stato il grande Benito Mussolini, che teneva il popolo italiano e non come che lo lordo d'Alfano che sta facendo già se tutte si immigrate da me e noi puzziamo di fame. Poi che cos'è che disse a un certo punto? Viva il Duce, questo qua ha avuto non so quante centinaia di migliaia di click. Viva le camicie nere, viva il fascismo, viva il Duce! Ciao amici, viva il Duce! Duce! Cioè, tu capisci? No, no, dirò dopo. E faceva così con il saluto romano. Dirò allora, dopo. No, ma signor Mandarino, è uno straordinario artista del web, lo si potrebbe definire. Uno che a un certo punto, per un breve periodo, ha avuto non so quante centinaia di migliaia di click per questa sua foto. Warhol era un artista, non Mandarino. Mandarino, ma comunque mica, lo dico dopo. Quando c'è Mandarino, glielo dico perché non voglio sparare sugli assenti, voglio dialogare quando sarà presente, ma dire che Mandarino è l'artista Mandarino, no. Cioè, c'è un limite a qualunque. Duchamp era un artista, Dalì era un artista, capito? Ma non è questione di snobberia, è questione di parole. Dalì era un artista, Dalì capro. Mi viene fuori la voce da Sgarbi quando parlo di questo. Però no, non voglio essere snob. Mandarino, gli ascoltatori della Zanzara, vadano intanto da qui alle 20, alle 20 e 40, quando ci sarà Mandarino, Mandarino, vadano a vedere che questo, e poi mi dicono se è un artista. Dicono se è un artista. Mi arrabbio solo per questo. Poi dopo può fare qualunque roba. Mandarino, no, tu lo vorresti, ma non è un artista, hai capito? Non è un artista, vorresti... da lì era un artista. Lo vorresti in galera, Pasolini, ma no, ma lo vorresti, no, in galera, ma tu lo vorresti in galera, questa è la differenza. In una struttura protetta, non in galera, in una struttura sanitaria. Ma perché? Con della gente che lo coccoli, che gli voglia del bene, sì, che gli faccia ogni tanto nella vena, gli metta un qualcosa per un farmaco per curarlo, un letto bianco, un plaid, un film, Quark alla televisione, cioè metterlo in condizioni di non nocere a se stesso e agli altri, lì tranquillo, con la minestra alle 7, orari regolari, la mattina un po' di pane con il burro e la marmellata. Senti, ti consiglio di leggere, consiglio di leggere adesso un articolo. Ma non è un artista. No, d'accordo, ti consiglio di leggere un articolo che è uscito su Dagospia adesso sul sottoscritto. È quello che stavo leggendo. Aspetta, intanto io mi vergogno, però. Leggilo. E intanto. No, ma è quello che sto facendo. L'Italia è un paese di merda. Rubrica. Lasciatemi cantare. Questa Italia è un'Italia di merda. Con la chitarra in mano. L'ho sempre detto che questo è un paese di merda. Lasciatemi cantare. È uno stato di merda che andrebbe processato. Sono un italiano. Questa è la merda d'Italia. Sono un italiano. C'è un'Italia di merda. Lasciatemi cantare. Con la chitarra. Prima notizia di oggi, il ministero degli interni, il sottosegretario, d'accordo col sindaco Marino a Roma. D'accordo col sindaco Marino a Roma, stai zitto, che è una rubrica questa. D'accordo col sindaco Marino vorrebbe offrire 30 euro al giorno ad immigrato, alle famiglie che ospitano un immigrato a casa. Tu capisci la follia, no? Cioè, allora, ripetiamo, in casa delle famiglie romane per 30 euro al giorno. Questa è una proposta del Ministero degli Interni per risolvere il problema dell'affollamento dei centri di immigrati. Inutile dire che sono assolutamente d'accordo. 30 lo puoi spiegare. Euro inutile al giorno, dire che sono 30 d'accordo. Euro al giorno. Dunque, praticamente, venite tutti, vi diamo 30, venite tutti. Tanto ci saranno famiglie che possono così magari arrivare fino a 900 euro al mese o non so quanto, ospitando gli immigrati a casa. Cioè, aiuta due persone gli immigrati in una. Dai, su. Aiuta le famiglie in difficoltà. Che vergogna. Crea solidarietà, sì, e sì, dà una mano ai migranti. Comunque, secondo me giusto. 30 anzi è troppo poco. Secondo me è questo, questa 30. È la merda d'Italia, ecco. No, è. Questa è la parte migliore. È la parte migliore d'Italia, altro che. Le famiglie che vogliono mettere a disposizione la loro casa. A Pomezia il sindaco 5 Stelle, che si chiama Fabio Fucci, vuole multare un cliente, non solo che va a prostitute, ma che parla con una prostituta. Sanzione di 166 euro. Non solo se vai a prostituta, che è già una follia che solo Parenzo può no, ma io non sono approvare. D'accordo con Fucci, eh no, vuole no. Approvare questa cosa, vuole approvare, anzi no, vuole, ha confermato una ordinanza in cui si multa per 166 euro uno che si ferma con la macchina e parla con una prostituta. Follia, questa follia. 166 euro, signor Fucci, è uno stato di merda che andrebbe processato. Va bene. Massimo da Treviso, buonasera Massimo. Buonasera Cusani, buonasera. Vai, Parenzo. Vai. Io volevo. Vado. Allora, una cosa a Parenzo, siccome lui ha detto che il saluto fascista è evidente che non va fatto per ovvi motivi, per. No, è un reato, è apologia di fascismo, è semplice. Reato, perfetto. Allora, Parenzo, molto semplicemente, io sono figlio di un'esule istriana e gli istriani italiani sono finiti nelle foibe, sì, lo so, per colpa lo so. Dei comunisti. Ecco, perfetto. Allora, nel comunisti titini. Di persone, io quando vedo il pugno comunista, esatto, bravo. Vivo la stessa identica cosa, bravo, che vive lei. Bravo, allora, bravo. Posso capire parità, questo. Lo facciamo. Bravo. Facciamo il segno o non lo fa nessuno. Ne rispetto. Ma bravo, ma chi se ne frega se fanno un saluto fascista, un pugno chiuso, ma chi se ne frega? Lo facessero, se sono matti da ispirarsi al comunismo, al fascismo, che siano matti. Non c'entra niente. Si fa. No, però per Parenzo no, invece il saluto, sì, il pugno chiuso no. può essere fatto mentre il saluto fascista no. Uno è considerato un reato nel nostro paese, per fortuna. Ma non te la puoi cavare così. Ma non te la puoi cavare così. Mi pare si chiama apologia di fascismo. Ma non te la puoi cavare con la. E allora dite quello che volete. Legge. Ci sono leggi anche sbagliate. Ci possono può essere leggi sbagliate. Questa come io sai? La ritengo bisogna giusta. Poi dopo voi dite altro. Bisogna che è sbagliata. Per va bene. Dire le cose come stanno. Va bene, grazie Massimo, grazie. Ma, Riccardo da Roma, buonasera. Comunque sono stati i comunisti titini. Fammi sentire Riccardo. Buonasera, buonasera a tutti. Ma tengo sempre così, ma per far notare a Parenzo, anche se mi rendo conto che insomma è quasi inutile. Ma tu sei Riccardo, Riccardo? Io sono Riccardo, Riccardo da Roma. Ma il famoso no, Riccardo, non è no, quello, no, una non voce tu, diversa. Non sei tu, non sei tu. Io sono Riccardo da Roma. Ha avuto un piccolo coccolone per allora, un altro. No, no, non conosco Parenzo. Io volevo far notare che quello che lui chiama saluto fascista, in realtà è un saluto romano. Che risale a 2000 anni fa circa, che il fascismo ha ripreso, ma certo. È come dire, che ne so, togliamo le bandiere perché i nazisti sono bandiere naziste. Non è così, comunque lo sa è meglio così, di me. Perché lei io, ha detto guarda. Una cosa giusta, no, lei ha detto è giusto, cioè il fascismo che ha costruito il suo mito su quella roba là l'ha ripreso romano, dai romani. A certo. Roma è proprio una follia, no, perché voglio dire, è stato romano. Ma a me non mi risulta, io vivo a Roma da 3 anni, non mi risulta che la gente per strada, siccome diciamo ricorda gli antichi romani, quelli del Colosseo, beh, quando ti vedono ti salutano così, non mi risulta che i romani salutino così le però romane, è una cosa di storia, ecco, cioè non mi risulta, non mi risulta. Ma io capisco perché la signora Dandola mi chiama in diretta, signora Dandola è l'autrice, perché non tutti devono Dandola, essere vabbè, messi fammi sentire sapere. aspetta l'autrice di Dandola, sono in diretta, non mi rompere i coglioni, ciao. Riccardo, che stavi dicendo? No niente, io volevo soltanto questo, cioè che c'è un piccolo, è un'assurdità questo reato d'opinione che poi viene. Non è di opinione. Perché è un reato d'opinione, perché uno che saluta romanamente, come salutavano le legioni. Vabbè, ma uno può, lei è simpatico perché ha detto, ha ricordato una cosa storica e furba, perché è vero che il fascismo si rifaceva a quella roba là. Ma il fascismo ha pure le camicie nere, c'aveva. Allora vietate le camicie nere. Dai, è ridicolo, su, è tutto ridicolo. Dai. Le camicie nere a tutti e via. Uno può essere tranquillamente antifascista e dire che la punizione, punire due di casa Pound o di casa Vianello perché fanno un saluto fascista, di casa Pound potrebbero. Ma è un reato d'opinione, è come punire le persone che tirano le palle, come quelli che vogliono, che dicono che la Shoah non esiste, sono opinioni, però sono opinioni di merda, sono d'accordo con voi, no? Però sono opinioni. Vabbè, grazie. Daniele Milano. Pronto? Sì. Anche in Germania. Vai, dito, Daniele. Ma in Germania ci hanno avuto il nazismo, anche noi il fascismo, per carità. Cioè, ma anche il comunismo, bravo, però. Bravo. Anche bravo. Il comunismo è proibito. Però mi risulta che in proibito Germania, in Germania anche il Partito Comunista. In Germania è proibito il anche il Partito Comunista. Hai fatto nazista. L'esempio sbagliato. Anche il Partito Comunista è proibito. Daniele, Milano. In Italia non abbiamo Vai, avuto Daniele. Quel comunismo lì. Sì, beh, no, io tornato cioè, l'abbiamo avuto al confine, però. Volevano venire qua. Daniele da Milano. Sì, non mi sembra che Berlinguer. Che c'entra Berlinguer? Se non sai che dire, citi Berlinguer a caso. Cioè, Daniele, Milano, vai, Daniele. Sì, vado. A livello Toscani, vi siete andati su la parte. Come si fa nel 2014 a fare ancora confusione tra pedofilia, omosessualità? Quindi questo era stato pedofilia. Ecco, io lo dicevo che devi andare con la schiena al muro. Cioè, è una. Voi, per carità, vi sento e non è la posizione, però quando viene esposto in quel modo veramente crea un casino è allucinante. No, ma non ha parlato di omosessuali allucinante. Uguali a pedofili, attenzione. Sì, no, sì, non ha detto questo. Ecco, avevo ragione. No, hai ragione quando parlava di pedofili, non di omosessuali all'interno del Vaticano. E poi ha detto che la proibizione del sesso, secondo lui, la proibizione del sesso, del matrimonio, insomma, voleva dire questo, all'interno del Vaticano provoca, come tutti i limiti, secondo lui provoca queste cose. Sono convinto che lui la pensi così e sono convinto, lo so, che voi detto per come è stato esposto. Vabbè, ciao, Grau. Ciao caro, ciao. A proposito di massoneria e dintorni, le accuse che sono state fatte da Ferruccio De Bortoli a Matteo Renzi, abbiamo con noi Beh, un personaggio che è già stato nostro ospite, caro Parenzo. Un personaggio che ne sa di queste cose. Gioele Magaldi, buonasera. Buonasera a voi. Come sta? Bene, bene, molto bene. Allora, fondatore e gran maestro del Grande Oriente Democratico. Sì. Vogliamo spiegare che cos'è il Grande Oriente Democratico, caro Magaldi? È la componente, come dire, di sinistra della massoneria italiana o no? Era, cioè è nata come corrente dissidente, diciamo, progressista nel Grande Oriente d'Italia, dopodiché è diventata parte del network massonico progressista internazionale, insomma. Parte del network massonico progressista, Parenzo, sì. Hai capito? Sì. Che fai, ridi, che fai, sbuffi? No, sbuffo, sto ascoltando il professor Magaldi, anzi. Allora, Magaldi, perché Ferruccio De Bortoli, secondo lei, ha parlato di massoneria? Ecco, le faccio una rapida premessa, sì. Diciamo, sia lei che Parenzo, che tutti i nostri ascoltatori, sì. Poi sapete probabilmente pochissimo di massoneria. Molto poco, però. Sì, vero, pochissimo vero. Che crede di sapere è sbagliato. Fatta questa premessa, io nel corso di altre interviste, negli ultimi 4 anni, ho annunciato che sarebbe uscito un mio libro. Ecco, questo libro in realtà è diventato una trilogia. Una trilogia, Una trilogia. E sì. Finalmente, diciamo, dopo aver molto lavorato, a partire da novembre e poi a gennaio e a marzo 2015, quindi novembre 2014, uscirà questa trilogia. Il titolo è Massoni, Società Responsabilità Illimitata, per Lettere Editore. Vabbè, e sarà questo seguito da altri due volumi, sì. Tra maggio e un'enciclopedia che ha fatto? Che si intitoleranno, è quasi, Il potere globale e i suoi venerabili maestri. Il potere globale e i suoi venerabili maestri. Esatto. Secondo me lei, se bada i grillini, quello glielo presentano in grande stile, cioè l'assumono subito. Comunque lo presenterà chi riterrà. Ma perché faccio questa premessa? Perché per capire, per decodificare il senso dell'editoriale di De Bortoli, sì, Magaldi, su cui si sono, come dire, accapigliati senza grande costrutto, esegeti, insomma, abbastanza probabili e improbabili, bisogna mettere a fuoco, appunto. No, però scusi, però Magaldi, a me va benissimo che lei abbia spiegato che escono i volumi, eccetera, va benissimo, un annuncio importante, ci sarà questa trilogia in cui verrà spiegato tutto della massoneria. Però io le ho fatto una domanda. Perché De Bortoli ha parlato di massoneria? Lei sa, le rispondo innanzitutto con una domanda. Lei sa cosa sono le urloges? Le? Urloges. Ma no. Logge? Lo sa. A che fare con le logge? Comunque no. Sono delle specifiche superlogge sovranazionali. Sì. Cioè lei è abituato a parlare di Grand Oriente d'Italia, Grand Oriente di Francia. Cioè, sta parlando di Bilderberg, questa roba qua. Gran loggia, Gran loggia dello Stato di New York. Cioè lei è abituato a parlare, a pensare di gran logge su base nazionale. Che poi normalmente hanno rapporti diplomatici tra di loro a livello internazionale. A partire dalla metà dell'Ottocento e soprattutto nel Novecento, invece, si sono sviluppate delle superlogge che nascono già sovranazionali. Sì, però scusi un attimo, la domanda è questa. Magaldi, non è un simposio questo. Faccio uno sforzo per il bene dei suoi ascoltatori e per il bene quello di Parenzo. Ma non è una buona volta cos'è la massoneria. No, ma io sono molto interessato. Ferruccio De Bortoli, perché ha attaccato Renzi? Non le sto rispondendo, ma per risponderle in modo non banale, come hanno fatto tanti altri che lei poteva intervistare, ho bisogno di questa premessa che ho fatto. Allora, posto che sono nate queste superlogge, queste superlogge le possiamo considerare l'aristocrazia massonica. L'aristocrazia massonica, dunque. Ecco, in questo contesto si inserisce anche nei tempi e nei modi l'editoriale di ci arriviamo, benissimo. Perché? Cosa dice De Bortoli? Che dice? Quando lo fa? Lo fa nel momento stesso in cui Matteo Renzi è a New York e parla al Council on Foreign Relations. Non hai capito. Che vuol dire? Sì, no, che cosa? Massoni pure quelli? Massoneria internazionale? Però Magaldi, scusi, qui non possiamo perdere. Però questo è interessante. Lei parla ai suoi ascoltatori di politica. Lei sa cos'è il Council on Foreign Relations? No, so che cos'è, ma non so che cosa vuole dire lei, però, dicendo, allora, lo so. È un istituto paramassonico. Paramassonico, sì. Fondato nel 1921, un anno dopo il suo gemello britannico, che è il Royal Institute of International Affairs. Va bene, dunque? Beh, che è questa associazione associazioni paramassoniche, ce ne sono tantissime. Oh, ma, cioè, per arrivare, ma un, cioè, per arrivare a spiegare, c'è la cosa di Magaldi. Magaldi, qui non siamo però. Questa è la zanzara. Ho capito, ma non abbiamo. Io le ho fatto una domanda. Non lo sa, ma io le sto spiegando. Cosa pazzesca. Allora, De Bortoli. Oh, eccoci, arriviamo. Tanto arriva pure la pubblicità, le dico solo questa, arriva pure, però non se la prendo con me. Ho capito, ma io sono qui per spiegare. Se vuole, se no chiami Stefano Feltri che le scrive due stronzate senza capire nulla. E lei, allora, Magaldi, che è il fondatore, gran maestro del Grande Oriente Democratico, sì, se ci fa, come dire, la cortesia, sì, dopo faccio, la pubblicità, dopo, cioè, la pubblicità mi spiega, perché, mi spiega, no, perché De Bortoli ha dato, perché De Bortoli, io sono asino, voglio rimanere asino, voglio rimanere asino, pubblicità. Guardi che io sono un tossicodipendente della zanzara, capito? Vi ascolto mattina, vi ascolto la sera, in podcast, sempre vi ascolto. Devo farvi un grande annuncio, popolo della zanzara, popolo della radio, fermi tutti, grande annuncio. Parenzo, dove sei? Fermo. Sono qua. Ci sei? Fermo. Stai scappando, studio di Roma? No. Beh, no. Mi è arrivata una grande notizia adesso. La notizia è questa, perché diciamo la verità, poi adesso mi voglio sbilanciare. Ci sono persone e persone. C'è gente che se la prende e fa richiami alla privacy, al garante, eccetera, gente che fa ricorsi, casini. Berlusconi si è arrabbiato, per carità. Si è arrabbiato, se l'è un po' presa per questa storia qui dello scherzo. È normale perché uno che viene comunque, certo, chiamato da uno, certo, che fa finta di essere Zoff e passa tutti i controlli di Arcore, non è che ci abbiamo messo moltissimo, poi sentirete, però comunque ci siamo dovuti ingegnare per arrivare a Berlusconi, comunque era un po' arrabbiato, però da liberale qual è? Da liberale qual è? Senti, nonostante il richiamo dell'authority, nonostante il richiamo del garante, da liberale qual è? Ha dato il suo assenso alla divulgazione dell'audio. Allora, cioè, questo è importante. Nonostante il richiamo dell'authority, ha detto, da liberale qual è? Ha dato il suo assenso alla divulgazione dell'audio. Questo Berlusca, è il punto. Ragazzi, non era contento. Passi e devo avanti. Dire anche la verità. Poi domani leggerete sui giornali o soprattutto sul Sole 24 Ore qualche considerazione su questo. Insomma, da liberale uno dice: abbiamo fatto lo scherzo, certo, sono stato ingannato, me la prendo. Però si può diffondere questo scherzo. Da liberale qual è? Punto. E adesso alle 20:15, alle 20:15 sentirete questa roba, che è una roba, come dire, normale, cioè non si è data niente di particolare. Ma abbiamo gli applausi per il Berlusca dalla regia. Ci facciamo sono gli applausi a Berlusca. Ci sono applausi a Berlusca, dai, facciamo gli applausi a Berlusca, dai. Ci vuole, no, ma con sincerità. Allora, io avviso tutti i siti, agenzie di stampa, eccetera, che hanno bloccato tutto, che potete rimandare in onda tutto, potete rimandare online tutto. Si può tranquillamente diffondere il testo, non era niente di particolare, c'era una qualche considerazione su Inzaghi, qualche considerazione su quello che è successo nel 2000, una cosa molto, come dire, non è che c'era una cosa bomba, non era una bomba, però era uno scherzo in cui Berlusconi cade in una trappola, possiamo mandarli in onda, perché Berlusca, da liberale qual è, ha deciso. C'è l'applauso ancora? Applauso, dai. Vabbè. Garante, allora, lì il garante, Gioele Magaldi, 20:15 mandiamo sto scherzo. Allora, Gioele Magaldi, fondatore e gran maestro del Grande Oriente Democratico. Io capisco che lei voglia parlare, spiegare. No, no, ma questo è interessante. Però. E le siamo. E le siamo... al dunque della sua domanda. Benissimo, perché Ferruccio De Bortoli ha dato del massone a Renzi? Ma lei vedrà che era necessaria quella introduzione. Può darsi, adesso vediamo. Perché Ferruccio De Bortoli, uno si domanda, no? Ma come il Corriere della Sera di Ferruccio De Bortoli ha appoggiato a fanfare spiegate l'arrivo di Mario Monti, massone, massone parte di quei salotti buoni dell'aristocrazia massonica di cui parlavo, ha approvato e caldeggiato l'arrivo di Enrico Letta, paramassone, che un'altra volta spiegheremo meglio cos'è, ma si tratta di una posizione subordinata e ancillare rispetto a queste aristocrazie massoniche, cioè un paramassone del rango di Enrico Letta è ovviamente più importante di un massoncello qualunque su scala nazionale o locale, ma è comunque una persona che ha, diciamo, ha una subordinazione rispetto ad altri. A questo servono le cose come il Council on Foreign Relations, cioè coinvolgere persone del jet set internazionale in ambito politico, economico, cioè, mediano, tu vuoi dire, eccetera, scusa, magari non passano per l'iniziazione massonica in senso. Vuoi dire che è massone De Bortoli? No, sto dicendo De Bortoli lo possiamo mettere nella categoria degli utili servitori di queste aristocrazie massoniche. E dunque come fa a dare del massone a Renzi? Che c'è, appunto. Allora, adesso le spiego il perché. Cosa fa De Bortoli? che ha appoggiato Monti e Letta, sulla cui scia in fondo Renzi con la sua inconcludenza si è posto, nel senso che Renzi non sta facendo cose molto diverse, il paradigma che guida Renzi non è molto diverso, al di là diciamo della fabulazione, al di là delle modalità diverse di temperamento, di rappresentazione mediatica, non è molto diverso il senso e la sostanza. Eppure De Bortoli, che non se l'è presa a suo tempo né con Monti né con Letta, l'ha fatto solo dopo, quando sono caduti in disgrazia, cioè ha dovuto, diciamo, come dire, sommessamente lasciare andare quegli entusiasmi iniziali, e invece se la prende con Renzi. Perché? Chi è Renzi? Sì. Intanto sgombriamo subito il campo dalle stupidaggini che vengono messe in giro da complottisti. Cioè non è massone? Non è massone. Cristiano Renzi, il padre di Renzi, non è un massone, ma è in rapporti, diciamo, con il livello regionale toscano della massoneria. È in rapporti, ma non è massone. È un wannabe massone. Come? Scusi? È un wannabe massone. Vorrebbe diventarlo. Desidererebbe essere iniziato, non a livello, come dire, nazionale, ma vorrebbe essere iniziato in quei salotti buoni, in quell'aristocrazia massonica di cui le dicevo. Questo chi? Renzi? Sì, però professore, scusi. Questo Matteo Renzi. La domanda è diretta, a chi cosa si riferisce fa, però De Bortoli? Scusi. Cosa fa De Bortoli? Siccome sentiamo. Matteo Renzi ha chiesto invano a due rappresentanti italiani di questa aristocrazia, cioè Giorgio Napolitano, che è iniziato alla Triais, che è un importante orologio sovranazionale. Mario Draghi, che è iniziato e partecipe di ben 5 orologi, ha chiesto invano di essere ammesso ad una di queste orologi, e finora non ha avuto risposte positive. E che cosa ha fatto Renzi nel frattempo? Si è accordato, questo è noto a tutti, sul piano politico, con il famoso patto del Nazareno, con Berlusconi, per fare una serie di cose. Cosa fa De Bortoli? Che fa? Notando che ci sono delle frizioni e delle paure da parte di queste aristocrazie massoniche su quelli che possono essere i passi di Renzi, non nel senso che Renzi voglia fare politiche economiche diverse, ma nel senso che è imprevedibile, è ritenuto imprevedibile, un po' come Berlusconi. Allora, Berlusconi non è mai stato ammesso ai salotti buoni dell'aristocrazia sovranazionale. Allora? Ebbene, De Bortoli gli lancia un avvertimento, nel senso, siccome sa che Renzi, andando a New York, negli Stati Uniti, è al Council on Foreign Relations, dove ci sono diversi personaggi di altre urloges, gli dice, vada bene, caro, tu sei lì, per obbedire e fare un determinato tipo di politiche iniziative. Allora? Non ti pensare di concerto con Berlusconi, che si è fatto a suo tempo una sorta di superloggia catarista. Non ti pensare, non ti pensare di poterti slegare da quelle che sono le impostazioni decise da Napolitano e da Draghi. Ho capito. Quindi il contesto. Ma non sembrava detto in senso positivo, però magari. È una lotta tra massoni, insomma. È una lotta tra massoni, evidentemente. Naturalmente De Bortoli è un paramassone di rango. Cioè paramassone di rango. Non ho capito niente. Verdini cos'è? Ma Verdini è un massone di medio calibro, insomma, stiamo parlando di altre cose, cioè conta più un De Bortoli paramassone, ma paramassone legato a... Che vuol dire paramassone, Magaldi? È un Verdini massone casareccio di ambito italiota. Ah, è un massone casareccio lui. Ma io non... Ma cosa dice De Bortoli paramassone? Ma quali sono i massoni in questo governo, Magaldi? Intanto il più importante ministero ovviamente è occupato da un massone. Chi è massone? Carlo Padoan. Padoan è massone? Ma certamente sì. Lei pensava che lasciava, come lo era il suo predecessore Fido Schiero. Che massoneria è? Mario Draghi, Fabrizio Saccomanni era massone. Cioè il ministero dell'economia in questo contesto storico dal 2011 ad oggi non può che essere gestito da gente che in prima persona fa parte di questi salotti buoni. Ma non ho capito, che tipo di massoneria è quella di Padoan? È una massoneria neo-aristocratica, cioè non è certamente progressista, è una massoneria che di concerto, ripeto, con Giorgio Napolitano e Mario Draghi che ha una ottima stampa immediatamente, nel senso che se c'è un padre dell'austerità europea, quello è Mario Draghi. Ma questi sono giudizi politici, però parleremo non... perché parleremo anche del giochino poliziotto buono, poliziotto cattivo che Draghi fa rispetto a... Scusi, però, Merkel, signor professor Magaldi, presidente della Bundesbank e quant'altro, no? Ecco, questo è un discorso che meriterebbe un approfondimento a parte, ma siccome siamo in un ambito comunque voi non siete forse troppo interessati agli approfondimenti. No, ma non agli approfondimenti, no, ma siamo interessati, però lei dice paramassone, cioè ci vuole anche qualche, no? Ma la differenza tra para e massone, qual è? La differenza qual è tra para, e massone? No, io capisco, Magaldi, qual è la differenza tra paramassone e massone? Cioè non è che si può dire quello è paramassone. Ma me l'ha impedito perché no, per carità, no, no, e allora lo dica perché questo è importante. Te la spiego. Uscì peraltro un articolo rilanciato da Dago Spia e su web che ebbe molto successo. Vabbè, paramassone, era intitolato, che era intitolato Enrico Letta paramassone per eccellenza, cioè? Ed è un articolo di, mi pare, di un annetto fa, no? Dove si spiegava che cosa? Che da sempre la massoneria in quanto tale, specialmente l'aristocrazia massonica, siccome non agiscono direttamente sul piano delle, della politica, delle istituzioni, dell'economia, della finanza, eccetera, creano, questo è la rivoluzione francese, pensi, in cui sono creati i club politici da logge massoniche che attraverso i club politici... No, però scusi, la paramassoneria, che vuol dire paramassoneria? La paramassoneria è questo, cioè sono associazioni create e gestite, controllate in modo ferreo da massoni, dove però vengono invitati, invitati personaggi del set, personaggi importanti... Che non sono proprio iscritti, sì, non sono massoni. Senta, ma la Toscana che cos'è? Magari di diventarlo. La Toscana è un ambiente proprio molto massone. Ha capito quello che le ho detto? Sì, sì, ho capito. L'ambiente, la Toscana è un ambiente pazzesco per la massoneria, pieno di massoni. L'ambiente Toscana che viene evocato a margine di Renzi è un ambiente di stracciaculi, nel senso quando parliamo dei rapporti di Siano Renzi con i massoni toscani parliamo di nulla. Verdini è un massone di medio calibro, anche in disgrazia, diciamo, gestisce quello che... Per cui è una lotta, tra aspiranti massoni, questo è il punto. Questo no, è una... il punto è un altro, il punto è che De Bortoli naturalmente... È più potente degli altri, De Bortoli sta anche facendo un'altra cosa, perché il resto della lettera di De Bortoli è anche... Vabbè, ma d'accordo, cioè, che sta facendo? Acqua da tutte le parti sto discorso, io te lo dico. Una serie di fragilità del governo. Acqua da tutte le parti sta roba, però, scusami, Cruciani, Magaldino mio. Sì, aspetta un attimo, manda un messaggio. De Bortoli manda un messaggio chiaro, cioè sta dicendo due cose. Uno sta, e la cosa meno importante, sta dicendo mi trovo abbastonata, poi mi cercherai per darmi uno strapuntino, perché vabbè, io d'accordo. Sono in uscita e quindi se da qui ad aprile ti continuo a menare quella è un'altra cosa, troviamo un accordo, troviamo un aspetto accordo tuo personale cioè. Ma invece, no, questo è possibile. Per conto terzi avvisa Renzi, dice guarda caro, tu continua a chiedere di essere iniziato nelle logge che ti indicheranno Napolitano e Draghi, ma non ti sognare di giocare in proprio. Siamo alla follia, magari con i contatti che avrei avuto negli Stati Uniti in questi Ma giorni. Scusami Magaldi, pensare che sia semplicemente l'articolo di un direttore che non condivide alcune scelte fatte da Renzi primo, secondo, no, sulla massoneria, secondo me non l'avete letto bene quel passaggio. Capacità interpretative. No, guarda, devo chiudere, grazie Magaldi, pubblicità, grazie. Ciao, grazie. Tu sei un depravatone, mi piace anche per quello, anche Parenzo un po' depravato. Prima del traffico, vi ricordo che dopo il traffico manderemo lo scherzo fatto con un finto zoff all'ex presidente del Consiglio Berlusconi. Prima del traffico, voglio dare ragione a Lele Mora quando dice oggi al processo bis, Ruby bis, sostiene una cosa su Berlusconi, appunto, e chi frequentava la casa di Arcore, dove, eccolo qua. Dice Lele Mora al processo Ruby bis: Berlusconi non aveva bisogno, forse contraddicendosi con alcune cose sue del passato, ma comunque lasciamo perdere, Berlusconi non aveva bisogno né di me né di Fede se voleva qualche signorina per divertirsi. Quelle ragazze non erano prostitute ma amanti, e un amante al suo uomo può chiedere quello che vuole. In questo modo ha difeso le cene eleganti. Basta di chiamare queste ragazze prostitute. La davano per ottenere delle cose, allora significa essere prostituta, no? tante persone la danno per ottenere qualcosa. Tante persone offrono una parte del proprio corpo, anche piccola, per ottenere qualcosa. Sono tutti prostituti? Può darsi, allora siamo tutti prostitute, come dice la nostra amica Chirico. Traffico. Tutto è iniziato in questo modo. Nel 2000 Zoff, io ero là presente, perde la finale dei campionati europei di calcio. Dino Zoff, allenatore della nazionale, dopo una partita incredibile, subendo il pareggio dalla Francia all'ultimo minuto e un gol nei tempi supplementari. All'epoca c'era il golden goal, cioè chi segnava nei supplementari vinceva, chi segnava per primo. Il giorno dopo Berlusconi si scaglia contro Zoff parlando di cosa indegna, di avere visto delle cose indegne perché non ha fatto la marcatura su Zidane, eccetera eccetera. Zoff, per quelle frasi di Berlusconi, che all'epoca era capo dell'opposizione, si dimette. Da quel giorno, 14 anni fa, i due non hanno mai parlato. Quello che abbiamo tentato di fare è far parlare i due, in modo ovviamente non diretto, utilizzando un finto Zoff, che ovviamente e Andro Mercù, il formidabile Andro Mercù. La cosa è iniziata in questo modo, con una prima telefonata ad Arcore, così. Pronto? Sì, buonasera, sono Dino Zoff. Buonasera. Buonasera. Io avrei bisogno, vorrei parlare cortesemente col dottor Berlusconi perché è una cosa importante. Purtroppo è uscito poco fa, che è andato a Milano per un appuntamento. Lasciamo la chiamata e dovrebbe rientrare intorno alle 18.30, 19. Senta, dica. Guardi, io adesso sono presso l'abitazione di un mio carissimo amico. Sì. Posso richiamare dopo le 18.30? Sì, perché poi lui ha un appuntamento. Guardi, è che purtroppo, allora non le sto a spiegare la mia giornata, che è piuttosto. Guardi, facciamo così, io riprovo più tardi. Sì. Riprovo più tardi, se non ci fosse in quel momento le lascio il numero così. Vabbè, lei provi a chiamare, poi al limite. Benissimo. Se non riusciamo a passarglielo in quel momento mi lascia il numero. Senz'altro, facciamo così che è la cosa migliore. Va bene. Dunque, a un certo punto Zoff, finto Zoff, richiama. Pronto? Sì, buonasera, sono di nuovo Dino Zoff. Buonasera, sta per arrivare. Gli abbiamo dato la chiamata, per cui ha detto quando arrivo lo sento volentieri. Solo non so se arriva entro breve. Sì, o guardi, beh. Guardi signora, allora io sono a quel numero, non so se avete. E non me l'aveva dato. Ecco, allora le do adesso il numero, io sono qua ancora un'ora circa, poi devo andare a prendere l'aereo. Sì. Ma insomma, speriamo bene che si riesca a combinare. Ecco. Mi dica. Quindi io sono a Milano 02. Questo è un numero temporaneo, da quello che ho capito. Sì, giusto? Sì, okay. Sì, adesso sono a Milano, sì, purtroppo io sono. Arriva, siccome ci ha detto, sì. Poi lo chiamiamo. Sì, perfetto. Benissimo. Allora aspetto qui, sono qui ancora circa un'ora. Grazie. Grazie a lei, okay. Sì. Buonasera. E infine Berlusconi, lui, Berlusconi richiama al numero che gli abbiamo dato. Dino Zoff. Sì, sì. Buonasera. Buonasera. No, la sentivo malissimo. Sì, a dire la verità anch'io lo sentivo male. Un attimo che provo a passarglielo, eh? Grazie. Buonasera. Buonasera. Pronto? Sì. Zoff, buonasera. Presidente, buonasera, spero così di non disturbarla. No, si immagini, mi dica. Io la chiamo perché volevo dirle di persona una cosa. Lei forse sa che ho scritto un'autobiografia, tra l'altro edita da Mondadori, mi sono permesso così di spedirgliela. Sì, quando me l'ha mandata? Io ho fatto spedire questa mattina, insomma, se non arriverà. Io non l'ho ancora ricevuta. Sì, però arriverà, mi sì, auguro, sì. Insomma, domani. Comunque, Presidente, nel libro, come immagina, io parlo anche della finale europea del 2000. Sì. E inevitabilmente mi chiedo ancora del perché di questo suo durissimo attacco personale. Ecco, dovevo chiederglielo. Ma guardi, io non ho fatto nessun attacco personale, la stampa poi dopo ci ha messo del suo, come sempre. Io ho semplicemente detto che quando ha messo la panchina ha deciso, lei ha deciso di mettere dentro Ambrosini, mi sembra, che andasse a curare da vicino con una marcatura uomo la fonte di tutto il gioco francese, cosa che invece non è successa, e Ambrosini mi ha detto che infatti lui non ha avuto nessuna indicazione al riguardo. Io che faccio calcio da tanti anni, ho giocato, ma a parte questo sono il presidente che ha vinto di più nella storia del calcio mondiale. Ho sempre predicato che quando c'è una fonte di gioco da cui passa, come passava per il francese, il 90% della costruzione del gioco della squadra avversaria, si dovesse arrivare ad una difesa a uomo francobollandogli addosso qualcuno. Sì, e quindi mi sono stupito, tant'è vero che poi il gol con cui la Francia è arrivata a fare il risultato è partito ancora una volta da Zoff. Sì, Presidente, poi le dico sinceramente che Zidane non c'entrava niente, fu Del Piero che poi si era mangiato anche il gol del 2-0 e poi lì insomma penso che se non ne parlavamo più, insomma. Sì, vabbè, comunque mi sembra che sia acqua passata molto. Sì, lontana. Presidente, però mi perdoni se insisto, però quella volta mi dica se è vero o non è vero, ma insomma ho sentito delle registrazioni, lei mi definì indegno. No, mai, non l'ho mai definito indegno nessuno, in vita mia. Beh, fa effetto, Parenzo, sentire la voce del Berlusca, no? Sì, in questo modo. Però no, si comporta, sì, devo dire, è Zoff. No, è uscito alla grande. Perché Zoff non è che può sbracare con Zoff, magari non sbraca con nessuno, Berlusca in privato, ma non può sbracare con Zoff, non lo conosce, lo chiama. E tra l'altro sul punto, che non è importante adesso rievocare dopo 14 anni, ha quasi ragione Berlusconi, perché in realtà non lo definisce indegno Berlusconi, lo definì una cosa indegna il modo in cui aveva allenato la squadra in quella partita. Sì, sì. All'epoca dissi pure che le dimissioni di Zoff mi sembravano ridicole, ma comunque ancora Berlusconi e Zoff, sentite. Io Presidente, io accetto le critiche professionali, ma questo mi è sembrato in tutta sincerità un attacco all'uomo Dino Zoff, insomma. Sì, sì, e dopo io non 14 ho mai anni un attacco all'uomo Dino Zoff, ho credo con un'espressione non ripetuta ma detto una volta sola, ha detto che mi aspettavo che ci fosse da parte dell'allenatore la misura di fare controllare Zidane con una marcatura d'uomo. L'unica cosa che adesso poi è passato tanto tempo, intendiamoci. Io l'avevo anche votata, quindi per me la bastonata è stata bastonata mastodontica. Le critiche peggiori dalla stampa poi sono stato io, perché la stampa mi sembra che sia stata tutta con lei, e quindi a me hanno fatto un mare di critiche. Insomma, comunque io spero che questa cosa qui ormai sia superata. Quindi Presidente, lei mi dice, no, perché io veramente questa è la cosa che più mi è rimasta sullo stomaco in questi anni, e quindi lei mi garantisce che non mi ha definito indegno, perché questo io è il termine. Assolutamente non mi sembra di avere mai usato una parola del genere nei confronti di nessuno. Io sono molto rispettoso degli altri, come si vede da tutta la mia vita, insomma. Ultima parte in cui Berlusconi parla anche di Inzaghi. Oggi tra l'altro ha detto di Inzaghi che deve seguire i suoi consigli, e più o meno in questo scherzo dice la stessa cosa. È stata una frase carpita anche quella di oggi di Berlusconi. Finale Berlusconi Zoff. Io guardi, se ricevo il libro e poi se posso fare una dichiarazione di apprezzamento nei suoi confronti la faccio molto volentieri. Non so se ha lo stesso atteggiamento adesso con Inzaghi, ecco, rispetto al sottoscritto a quel tempo. Sì, ma è diverso. Quando uno è presidente di una squadra, se ha un allenatore è chiaro che la società che deve fare la campagna acquisti eccetera deve avere con l'allenatore un rapporto di collaborazione, per cui se per esempio la società decide, che so, per fare un esempio molto semplice, di fare un attacco a tre punte con un centravanti e due ali, si compra, si fa una campagna acquisti in quella direzione. Se invece si decide di fare un attacco con una, due punte e un regista numero 10 tradizionale, si va in situazioni di, in direzioni diverse. Quindi è chiaro che tra la società e l'allenatore ci deve essere un'assoluta condivisione di come si mette in campo la squadra. In questo caso comunque con Inzaghi il rapporto è stato diverso, un altro paio di maniche. Presidente... No, con Inzaghi è successo che hanno preso una frase mia detta a un convegno con 300 giovani in cui ridendo e scherzando si scherzava di tutto, mi hanno detto: Presidente Berlusconi, lei continui sempre, vada ancora a Milanello, ci raccomandiamo, mi raccomando, vada sempre a Milanello. E io ridendo ho detto: sì, però devono poi seguire quello che si concorre, che gli dico io o qualcosa del genere. Sì, però dopo bisogna seguire quello che si decide insieme, qualcosa del genere deve aver detto. Naturalmente la stampa prende una cosa e la gira come vuole lei. Io sono 20 anni che sono sul campo della difesa della libertà del mio paese e mi hanno fatto di tutto e di più, pensi come mi hanno attaccato sul piano della serenità, del tempo, del mio, della mia immagine, del prestigio personale, del mio patrimonio, cercando di distruggerlo. Quindi quello che mi hanno fatto in questi 20 anni non è mai stato fatto a nessuno e la stampa ci ha sempre giocato sopra in una maniera veramente terribile, però su queste cose qua. Sì, sì, no, per carità, su queste cose non entro, Presidente. In una epoca così fatta. Va bene, signor Zoff, io la richiamo e se posso, leggendo il suo libro, emettere una dichiarazione di sostegno e di ammirazione nei suoi confronti, lo faccio molto volentieri. La richiamo io. Buonasera. Dove la parte finale in cui dice emettere una dichiarazione di sostegno stupendo. E di ammirazione, no, emettere una dichiarazione di sostegno. Ma poi ha giocato anche a calcio, dice. Eh sì, si sa. Cioè, non solo, dice, io ho fatto. Ma si sa, lui dice io sono numero uno. Numero uno, sì, ho vinto tutto. Comunque, la cosa che esce fuori da questa vicenda è questa: che Berlusconi, è vero, bisogna dire la verità, anche perché non esce male da questo scherzo, autorizza, ci ha autorizzato. Non voglio nemmeno dire questo. Resta il principio: altri fanno ricorso alla privacy e cercano di bloccare tutto. Berlusconi, che pure se l'è presa perché l'abbiamo fregato con uno scherzo, ci fa mandare l'audio nonostante il richiamo della privacy. Pubblicità. C'è una mostra, una zanzara comunista che mi ha preso. Vedi, cioè, guarda, vedi? Eccola qua. David, su Radio Padania un ascoltatore dice che non sei italiano, ti giuro, senti mancava, questa cosa di Radio mancava Padania. Questo, mancava. Senti questa cosa di Radio Padania, senti, un ascoltatore che dice Parenzo non è italiano. No. Poi chissà chi parla, capito? Chissà chi parla, vabbè, sentiamo. Fatti difendere un po' ogni tanto, no? Ah, perché sentivo Parenzo, insomma, del personaggio. Che diceva Machiavarin è un subumano, ma dai, ma sei no, simpatico. No, perché mi veniva, sai, lui non, adesso non è per essere polemico, però insomma non è neanche italiano. Il suo primo ministro, Menachem Begin, diceva che solamente gli ebrei sono esseri divini, tutti gli altri sono esperimenti. Dice che se la tirano un po' questi. Sì, lo pensano di noi, per cui ma perché ci deve offendere? Ma noi lo offendiamo, noi lo trattiamo sempre con un po' di simpatia. Non ma certo, ogni tanto qualche pernacchietta, insomma. Tutti i giorni ci offende, ma... Cioè, sta dicendo che non sei italiano, ma che il tuo primo ministro è quello dello Stato di Israele. Allora, andiamo. Ma ragazzi, provincia. Che hanno tanta confusione. Hanno dentro la testa, adesso viene in mente, l'acqua del popolo, probabilmente. Questo è il motivo. Mario, provincia di Latina. Sono Mario, poi ci dedicheremo domani a Radio Padania. Mario, provincia di Latina. Pronto? Dimmi, Mario. Buonasera, dottor Cruciani. Dica. Senti, io volevo rispondere a Toscanello, la domanda che si chiamava. Sì, che ha detto che fare il saluto romano è come fare una scoreggia. Io sono uno dei danni del testa di cazzo che sa, quando saluto saluto col saluto fascista. Tu quando saluti saluto col saluto fascista, vabbè, ma sì, il mondo è pieno di gente come te, non è un problema. Cioè. Lo so, lo so, pure di gente come te è pieno, come l'amico tuo loco. Chi? Che sta vicino a te, insomma. Fai, fai, cioè, continua a fare il saluto. Tu quando romano. Saluti, quando saluti le persone, fai, sì, fai col saluto, il saluto romano. Sì, alza la mano, alza la mano. Alzi la mano, vabbè, la mano. Cioè, il mondo è vario, perché il mondo è pieno di gente. Bello, no, il mondo con è problemi. Vario, perché è bello, no? Ma perché? Perché fai così? Spiegami. Perché, perché fai così? Perché credo a certe idee. Ma che c'entra? Io è una persona poi, problematica. Ma no? Puoi anche credere a certi. Perché devi salutare ogni volta in questo modo? Spiegami. Ma perché devo salutare? Scusa, perché devo salutare normale? Io non mi sento di salutare così. Vabbè, ma ho capito, benissimo. No, ma fascista, è così. Ma lo vuoi mettere in galera, Mario? Lo vuoi mettere in galera? Che lo permette lui di chiamare testa di cazzo? No, in galera. Sì, ha detto così, testa di cazzo, ha detto. Sì, sì. È il minimo che si possa dire. Testa di cazzo solo, ma lui come cazzo si permette? E vabbè, ti ha dato della testa di cazzo, sì, ti ha dato della testa di cazzo. Ma lui la mattina quando si alza, si guarda lo specchio, la testa come ce l'ha? Ce l'ha di culo. No, perché? Perché? Perché? Lo so io. Ma lui lo so non è che ti ha dato della testa di cazzo in assoluto, ha detto chi non fa a te in quanto come si chiama, ma chi fa il proprio a quelli che fanno il saluto fascista, sono tutti testa di cazzo. Beh, senza ombra di dubbio, questo voglio dire, cioè, comprovato dalla storia. E allora una cosa, come cazzo ti chiami? Tu comprovato, caro professor Mario. È confermato. Quando è straconfermato. Confermato dalla tra persone che hanno problemi. Persone con problemi ce ne sono tante nel nostro paese. Ne hai parecchi. Se addirittura hai deciso di telefonare per dire che ti piace, che ogni giorno fai il saluto romano. Vuol dire che di problemi ne hai tanti, hai capito? Quinto piede dell'asino. Quinto piede dell'asino. Che vuol dire? Quinto segreto. Che vuol dire quinto piede? Vede che sono un minimo di intelligenza. No, ma che vuol dire il quinto piede dell'asino? Spiegami. Cazzo. Il quinto piede dell'asino, vabbè, è la minchia. Vabbè, ma ho capito. Beh, è uno che ha problemi. Una persona come a te che si permette di come a te di criticare. Ma non solo criticare, mettere in galera. Fammi parlare. No, ma non solo criticare, ti vabbè, manca un passaggio. Ti saluto, Mario, ti saluto. Mettere in galera a pulire i bagni. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? Beh, non si poteva che concludere in questo modo, caro Parenzo, questa puntata un po', come dire, questa puntata speciale della Zanzara. Sono successe tante cose. La vorrei concludere con un personaggio eccezionale. Te l'ho già detto all'inizio della trasmissione, che quest'estate ha raggiunto il massimo dei click sul web. Il massimo. È diventato una specie di artista del web, come ho detto io. Emiliano Mandarino, buonasera. Buonasera a te, grazie per i complimenti, dottor Cruciani. Caro Mandarino, da dove chiamo? Da dove ci stai chiamando? Cioè, da dove ci stai chiamando? Da dove stai parlando? Da dove? Cosenza, Calabria. Cosenza, Calabria, bene. E che cosa fa nella vita Mandarino, oltre a fare questi video? Io ho una piccola ditta individuale. Com'è che ti è venuto in mente di fare quelle robe lì con il ghiaccio in testa, lì la secchia? Perché? Perché attacchi tutti i politici in questo modo così pazzesco? Io attacco tutti i politici in questo modo perché per me questa classe politica attuale in Italia, per me di destra, sinistra, centro, non ne vale nessuno. Cioè fa schifo, fanno tutti schifo. Fanno tutti schifo. È un mio pensiero. Per carità. È democratico. Democratico? È un paese democratico. Cioè. Sì, dove scusi, ognuno può dire qualunque cosa e questo va benissimo. Signor Mandarino, perché? Allora, mi dica la verità. Mandarino. Mandarino è un nome di battaglia, immagino, è uno pseudonimo. No, che pseudonimo, è il nome come vero. Come Ercoli, che quando è il nome vero, no? No, no, Emiliano Mandarino è il mio nome vero. Come no. Ghino di Tacco, quando Craxi si firma. No, ma è il nome vero, Mandarino. Pensavo fosse uno pseudonimo. Allora, mi dica la verità, Mandarino, lei è fascista. La dica lo tutta. Lo dico e me ne vanto. Oh, ecco, finalmente uno che la dice, che dice come la pensa. Io so, devo dire a voce alta, sono fascista. Certo. Beh certo, lo dica però, così almeno io sono fascista. Oh, così almeno e io faccio continuamente il saluto romano, lo dica. Ma io guardi, il saluto romano, se ancora siamo arrivati nel terzo millennio, ancora a parlare del saluto romano come tutte le televisioni, le stampe stanno strumentalizzando in questi le giorni. Stampe. Sì. Ma mi sembra un pochettino assurdo, guarda. Cioè, secondo lei uno può fare tranquillamente il saluto romano, non è che può essere condannato? Ma indubbiamente, in questo momento la legge prevede la condanna ed è giusto che sia così, ma non penso che sia. Ma lei lo fa il saluto romano? Lo fa? Io certo che lo faccio, chi voglio farlo lo faccio. Ecco, lo fa, se ci avvisa quando lo fa, così magari risparmiamo del tempo e, come dire, la facciamo venire a prendere. Ma tu ti devi vergognare, Parenzo, per quello che dici, lo sai Mandarino. Che ti devi vergognare. No, mi fa anche... Ma io, guardi, Mandarino, non tu. Io lo sento. Sì, no, Parenzo, pensa che invece il pugno chiuso comunista si possa fare, ha capito, certo. Mandarino? Si può fare, no, io penso, io non so niente, nessuno. Non è una cosa che lo prevede il codice penale in Italia. Anche il buon Mandarino si scopre costituzionalista. Sì, però non è giusto, dice Mandarino, o sbaglio? No, non è giusto, certo che non è giusto. Ma il comunismo per lei che cos'è, Mandarino? Guarda, il comunismo, così come abbiamo parlato ieri sera con le Iene del fascismo, uno dovrebbe usare un po' di par condicio e parlare di... Mi dica in una parola che cos'è il comunismo per lei. Ma il comunismo è quello che, al contrario di quello che si dice, è quello che ha fatto oltre 100 milioni di morti in tutto il mondo. Quanto? 100 milioni di morti. 100 milioni, adesso lo dico io. 100 milioni, io. Sì, no, 200, anche 200 milioni. Napolitano è comunista, secondo lei, ancora? Certo. Ma questo non lo so, ma certo che secondo me è proprio comunista. Come non lo so, prima diceva non lo so e poi dice è comunista. Scusi, però io vorrei capire una cosa, Mandarino. Per lei... Ma non chiamarlo Mandarino. Per lei ha il Duce, ha qualche foto del Duce a casa, mi sembra di aver capito di sì. Sì, certo che ce l'ho a casa. La foto. Ci mancherebbe. Quante ce n'ha? C'ha una foto in salotto, ho visto ieri dalle Iene, poi? E basta. Mi basta una e avanza. Cioè, per lei è un mito, per lei è un mito. Per me è stato uno che ha difeso il popolo italiano più di chiunque altro. Sì. Per me è stato chi ha dato la sanità, per me ha dato... La sanità però punti. Appunto... Per me ha dato... Poteva fare un po' meglio così anche lei... Tutto, ha creato i posti di lavoro, ha fatto di tutto... Le ferrovie anche, le paludi, ha bonificato le paludi... C'è stato qualche accordino con la Germania che non è andato proprio a buon fine... Meno male... Accordino con la... Va bene, guardi, se lei mi parla ancora come sta facendo come Enrico Lucci... No! Se lei ancora mi parla della Seconda Guerra Mondiale, dove... Sì, gliene parlo, lui ha mandato ieri sera, il dottore Lucci ha mandato... Il dottore Lucci ha mandato delle immagini solo ed esclusivamente di morti, però non ha mai fatto vedere qualcosa di bello che ha fatto il fascismo in Italia. Beh, certo, delle opere, delle bonifiche, delle case popolari. Lui ha mandato solo quello che ha lasciato, non ha parlato per esempio della bomba atomica. No, la bomba atomica gli americani l'hanno fatta, però, Mandarino. Ma sempre in guerra è stata. Sì, lei dice che non c'è stato solo il fascismo a fare i morti, dice lei, no? Anche gli altri. Lei collabora anche con La Storia Siamo Noi, vedo, no? Fa questa rubrica con Rai 3, lei, La Storia Siamo Noi. Ma il Duce è stato l'unico grande statista italiano, secondo lei? Per me sì. L'unico rimasto. Cioè ci vorrebbe il Duce oggi in Italia per risolvere la situazione. Ci vorrebbe il Duce. Ci vorrebbe un po' di ordine e disciplina, certo. Il Duce, il ritorno del fascismo, secondo lei? Uno con i suoi principi. In che senso, scusi? Con i suoi principi, con le sue idee. Ah, un Duce suoi con i suoi... di lui, suoi del Duce, lei dice. Il Duce non può rinascere. Ah, certo. No, un altro Duce non può rinascere, sicuramente. Ma lei, scusi, l'ultima volta che ha votato alle europee, che ha votato? Non ho votato. No, perché non c'è un partito che si richiama esplicitamente. Non gliene frega niente. Non me ne frega niente. Ma che ne pensa degli immigrati, per esempio? Gli immigrati, i clandestini, gli immigrati, li caccerebbe tutti fuori? Io guardi, ho fatto proprio un video per quanto riguarda gli immigrati. Il mio pensiero dicendo che per una cosa si dovrebbe, lo Stato italiano, il governo italiano, dovrebbe pensare prima a noi italiani, in tutti i sensi, sostenere le famiglie. Sì. Che hanno bisogno di tutto, e poi, se avanza, brava dottor Luciano, se avanza. Noi non siamo la... Beh, è nuova questa teoria, il popolo italiano è un popolo che è pieno di onore, il popolo italiano può dare il lavoro e anche la scuola, alle nostre leggi. Alle nostre leggi. Da noi e pretendere quasi 50 euro al giorno e mangiare bene quando ci sono dei pensionati che non riescono a vivere arrivati a fine mese, che vanno a rovistare alla fine dei mercati generali per poter mangiare qualcosa. Ma stiamo dicendo davvero, dottor Cugè? In Calabria ce ne sono di immigrati? Ce ne sono? Certo che ce ne sono. Io l'altro giorno ho pubblicato un video di un finto invalido che al semaforo faceva lo zoppo e poi subito dopo, come si ripartiva il semaforo, si metteva a camminare. Ma quello è italiano, però è italiano quello, però Mandarì. No, quello è un rumeno. Ma però è pieno di italiani che fanno i finti invalidi, non è che sono tutti stranieri. Aspetta, ma in questo caso sbaglia sempre lo Stato, però. Sempre. Comunque, la realtà, Mandarino, la realtà è che ci vorrebbe il duce, questa è la realtà. No, la realtà è che ci vorrebbe il duce, sì. Perché in questo momento la classica politica italiana pensano solo ai cazzi loro, punto. Capito? Ecco. Capito? Sì. Comunque, il saluto romano si può fare. Per me sì. Benissimo, lo faccio anch'io, guarda, stasera, perché questa cosa della Cassazione mi ha rotto i coglioni. Brava, tutto sbagliato. Tutti. Mi dico una cosa. A me non mi fa male il saluto romano, a lei fa male. Ma a lei se uno fa un saluto romano, sì. A chi fa male? E che ne so? Affama qualcuno. Ma i comunisti, lei che farebbe? Che farebbe con i comunisti lei? Io con i comunisti sono persone, io sono una persona civile, i comunisti hanno le loro idee, sì. Io ho le mie idee, sì. Io mi abbraccio con tutti, ognuno rispetta le proprie idee. Vabbè, Mandarì, ti abbraccio, dai, ciao. Saluti, signor Mandarino. Come si saluta? Viva? Viva il duce. Bravo. Ciao. A domani 18:30. Carabinieri sì, carabinieri no, domani. Dovete sposarvi in un altro posto, ragazzi. Voi parlate sempre di questi matrimoni gay, voi due. Ma siete una vecchia coppia, due gay che si continuano a insultare uno con l'altro. Voi ci dovete far smellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Gli amici della zanzara di solito sono sempre molto seri. Radio 24. La passione si sente.